Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente ci occuperemo di quello che sta capitando sui mercati e era un po' che la pentola bolliva, mi riferisco alla pentola greca. E oggi timori ulteriori, in alcuni casi si può dire anche pretesti, però i cali sono così generalizzati e così omogenei da non lasciare spazio come spiegazione solo ai pretesti. Dicevo, il timore che la situazione greca continui a avvitarsi ha portato le borse, sta portando le borse a un calo intorno al 2 punti percentuali. Peggio fa Francoforte, -2,5, un po' meglio Parigi, -1,5, Milano -2,1, Londra comunque perde l'1% e non sta dando una mano nemmeno l'America, che perde l'1,5%. Per quello che riguarda, è vero, so già l'obiezione, che in alcuni casi si tratta di pretesti o di un buon motivo per andare a vendere su borse che hanno toccato quanto indici, in molti casi anche quanto titoli, livelli alti, livelli che in alcuni casi non si vedevano dal 2009. Monte dei Paschi, dopo l'assemblea Fiume di ieri, perde oggi il 4,31%. Vanno male oggi tutte le banche, anche perché quando si va a vendere si alleggeriscono i portafogli dei titoli bancari. Pop Emilia Romagna -3,5%, Intesa San Paolo -3,40%, Pop Milano -3,40%. Visto che citavo la Popolare Emilia Romagna, vi anticipo che sarà nostro ospite l'amministratore delegato della Popolare Emilia Romagna per capire, appunto, continuare il nostro viaggio nel mondo delle popolari, che è un mondo che sta subendo una vera e propria rivoluzione con la decisione del governo di trasformare le popolari sopra gli 8 miliardi di patrimonio in SPA. Ancora, per quello che riguarda i titoli, dicevamo Intesa San Paolo -3,30 come la Pop Milano, Unicredit -3,20, Unipolsai -3,20 anch'esso. Poi ci sono titoli che non c'entrano nulla col mondo bancario ma che perdono, e mi riferisco a ST Microelectronics -3,20 e poi Prismian, l'ex Pirelli Cavi -3,25, Autogrill -3,24. Tra i bancari non ho citato Mediobanca -2,90%, e invece tra i non bancari citiamo anche A2A che perde il 2,80 e Buzzi Unicem, Luxottica e Ferragamo che perdono il 2,5%, infine Eni e Telecom -2. Di positivo, leggermente positivo, c'è solo Pirelli +0,13%. Di questo parleremo anche perché ci sono state delle ripercussioni, se vogliamo, ancora più evidenti, ancora più vistose sullo spread italiano, che è tornato intorno ai 150 punti. Adesso, al di là del valore preciso dello spread, su questo la fiammata è stata inequivocabile. Ricordo anche che oggi, essendo venerdì, è l'appuntamento con la classifica poco invidiata e poco invidiabile di Focus Economia, i 5 sprechi della settimana. Oggi sarà la volta non tanto degli enti locali, che sono spesso oggetto della nostra classifica e delle spese dei consiglieri, ma ci concentreremo sulla pubblica amministrazione centrale, e quindi non gli enti locali, e nel caso specifico sui dirigenti della pubblica amministrazione. Anche qui, senza populismi, non hai il problema di quanto prende solo il numero uno, anche perché in alcuni casi bisogna stare attenti a non far uscire completamente fuori dal mercato una società magari partecipata allo Stato e però con anche quotata in borsa. Infatti la legge non prevede le cariche apicali di questo tipo di società, ma sono sotto esame anche i dirigenti di seconda fascia, che risultano comunque i più pagati al mondo secondo il rapporto OCSE del 2013. E faccio notare che i dirigenti del pubblico impiego non hanno avuto l'emorragia di posti di lavoro che hanno avuto i dirigenti del settore privato. Dal 2008 al 2014 comunque 80.000 manager del settore privato nel nostro paese hanno perso il posto di lavoro. Poi alcuni l'avranno ritrovato, ma insomma non è facile, anche perché spesso si tratta di posti delicati, di età, ovviamente quando uno fa il manager tende a essere, avere un'età professionale più avanzata, per cui mentre da una parte abbiamo avuto 80.000 manager che hanno perso il posto di lavoro, d'altra parte nessuno ha perso il posto di lavoro, ma soprattutto gli stipendi risultano difficilmente giustificabili in un confronto europeo, anche ammettendo che la nostra pubblica amministrazione sia la migliore, ossia a livello delle migliori pubbliche amministrazioni centrali di carattere europeo. Di questo parleremo e ci concentreremo su questo anche perché presenteremo un libro scritto da un collega, si chiama Corrado Giustiniani, il libro è I dinosauri, nessuna riforma ci libererà dai super burocrati di Stato. Sono 70.000 calcolati i super burocrati della pubblica amministrazione. E questo è il tema, e oltre appunto a spread, tassi di interesse, borse e l'intenzione della Popolare Emilia Romagna. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Ovvio che avremo assieme a questi sprechi, o meglio costi in questo caso più che sprechi, avremo anche il caso virtuoso, sia l'imprenditore della settimana che abbiamo scelto per, come esempio, speriamo che possa essere di esempio a altri imprenditori, chi si rimbocca le maniche e proprio durante gli anni di questa crisi ha lanciato una nuova attività. Rapidamente le altre notizie in breve. Sapere dell'euro. L'euro è a quota 1,079, leggermente in rialzo, ma insomma ricordiamoci di quando mesi fa era 1,38, 1,39, è rimasto fermo a 1,28, 1,29 per moltissimo tempo, per cui non più tardi di un anno fa, anzi meno di un anno fa, l'euro viaggiava ancora a quota 1,40, 1,39, 1,40, per cui insomma a 1,08 siamo comunque a un livello molto più accettabile nei confronti del rapporto col dollaro. Le altre notizie in breve per quello che riguarda i mercati internazionali: al di là dello spread, quello italiano è salito fino a 146 punti, quello spagnolo a 136 punti, sostanzialmente ieri sera Varoufakis dall'incontro del Fondo Monetario Internazionale a Washington ha detto che la liquidità in Grecia sta finendo. Non stiamo giocando con il possibile Grexit, con l'uscita della Grecia, speriamo di un accordo entro giugno, sono pronto a accettare le condizioni se hanno un senso. Domani ci sarà un incontro del famoso Brussels Group, quello che ha preso il posto della Troica, e quindi Fondo Monetario, Commissione Europea e anche Banca Centrale. Serve un accordo da giugno, lo sostiene lo stesso Fondo Monetario Internazionale. E tra l'altro anche perché da giugno in poi aumenteranno i pagamenti che la Grecia deve fare e quindi i prestiti che deve ritornare, e nell'estate l'ammontare complessivo di quanto dovrà versare la Grecia salirà significativamente. Nessun commento invece dal Fondo Monetario al fatto che sia stato arrestato l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale ed ex vice premier spagnolo per l'economia, e mi riferisco a Rodrigo Rato, accusato di frode, riciclaggio di capitali e occultamento di beni. La Banca d'Italia, veniamo all'Italia, nel suo bollettino stima che dall'intervento di Mario Draghi, e quindi il quantitative easing, l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Nazionale, quindi la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea, dicevo, da queste iniziative potrebbe arrivare una crescita di un punto di PIL in più nel biennio 2015-2016, quindi uno 0,5% quest'anno e all'1,5% l'anno prossimo. Poi la Banca d'Italia segnala un lieve aumento del PIL nei primi tre mesi grazie a una modesta crescita della produzione industriale, dà un giudizio positivo al Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro, migliora le prospettive dell'occupazione, e a questo potrebbero concorrere anche gli sgravi contributivi che, ripeto, nulla c'entrano col Jobs Act e che sono in vigore dal 1 gennaio. Ancora la Banca d'Italia segnala una fiducia delle imprese che mostra segnali di miglioramento, anche se il ciclo industriale stenta a superare la prolungata fase di debolezza. Mentre con le politiche del governo, secondo la Banca d'Italia, riparte la domanda interna, ha creato i presupposti per un aumento della domanda interna, ma serve un rilancio del prodotto potenziale. Io questa frase non la capisco e quindi lo ammetto. È un aumento duraturo dell'occupazione, sì, ho capito. Nel frattempo Whirlpool, che, di cui ieri si è occupato anche questo programma, ha annunciato ieri che punta a investire in Italia integrandosi con la Indesit, acquisita a ottobre del 2014, ma per reperire risorse va a chiudere una fabbrica in provincia di Caserta e il centro di ricerca di None, vicino a Torino. Gli esuberi salirebbero così a 1.335, sono 395 in più rispetto a quelli previsti della vecchia Indesit. Dura la reazione del governo e dei lavoratori, sciopero negli stabilimenti marchigiani. A Caserta oggi i lavoratori dello stabilimento Indesit di Carinaro hanno bloccato lo scarico merci e hanno occupato tutta la notte, presidiato tutta la notte lo stabilimento. Il nostro Andrea Viali ha raggiunto il segretario della FIOM di Caserta, Massimiliano Guglielmi, che questa mattina ha preso parte alla protesta. È devastante perché esclude praticamente, nonostante ci siano 500 milioni di euro di investimenti in Italia, ma esclude completamente il sud. Se pensiamo alla chiusura di Carinaro, ovviamente produce 830 licenziamenti, più 500 più o meno lavoratori coinvolti dall'indotto. E su Napoli posso aggiungere sicuramente che non risolve il problema degli esuberi. Quindi la Campania è come se fosse praticamente stato a sé. La mobilitazione che è iniziata ieri, continuerà nei prossimi giorni, ci deve portare sicuramente a una soluzione, a una condizione per noi fondamentale. Il fatto che l'azienda deve rivedere le scelte fatte con questo piano industriale. Assolutamente per noi è impensabile immaginare un altro stabilimento chiuso, l'ultimo stabilimento chiuso in questa provincia, se parliamo di dimensioni, di addetti coinvolti e di prodotto industriale prodotto, appunto. Ma le istituzioni locali sono con voi? Cosa vi hanno detto? La risposta delle istituzioni al momento è molto debole. Io devo ancora una volta registrare che la regione Campania cade dalle nuvole. Abbiamo un incontro oggi alle 3:30, alle 15:30 con il presidente Caldoro e ribadiremo con forza che ovviamente questa scelta è una scelta che la regione Campania deve contrastare insieme ai lavoratori, insieme alle organizzazioni sindacali. Del resto però mi immagino anche che queste scelte non possono passare così all'improvviso e forse un po' di distrazione su questo versante c'è stato da parte dei nostri dalla parte della nostra istituzione regionale. E proprio al tema, la doccia fredda di Whirlpool ieri e alla vicenda Indesit, perché come abbiamo spiegato le due cose sono strettamente correlate, dicevo, proprio a questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche da Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Il caso Whirlpool Indesit continua a tenere alta l'attenzione non solo nei rapporti tra azienda, sindacati e governo, ma purtroppo, come spesso accade in Italia, rischia anche di diventare una facile occasione di polemica per chi considera le multinazionali come uno spietato predatore sempre pronto a spolpare aziende e mercati. È evidente che in un momento critico per il paese come questo, l'annuncio di 1.300 esuberi della chiusura di due stabilimenti non può certamente essere preso alla leggera, ma è anche importante evitare pericolose generalizzazioni. La crisi Whirlpool è un caso aziendale settoriale, non di sistema. Dipingere l'azienda come il simbolo negativo della globalizzazione è un danno al paese e a quel recupero di fiducia che l'Italia sta faticosamente inseguendo. È bene ricordare che senza gli investimenti delle grandi imprese estere sarebbe stato impossibile trovare soluzione al futuro incerto dell'Ansaldo, di Breda, della Lucchini di Piombino e di tante altre aziende italiane che senza interventi di capitali esteri avrebbero avuto un futuro incerto. La complessità di un paese non si vede solo dai beni che produce, ma anche dai capitali che è capace di attrarre. E pur catturando una fetta modesta dei 1.400 miliardi di investimenti esteri globali, l'Italia deve molto alle multinazionali. 500 miliardi di fatturato aggregato, il 6% del PIL italiano, oltre 3 milioni di addetti, che sono il 15% della forza lavoro complessiva, e soprattutto una spesa in ricerca e sviluppo che per addetto è di 2.200 euro contro i 500 euro delle imprese a controllo nazionale. Il mondo non ci aspetta ed è bene non attaccare il mondo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, questo nel giorno in cui tra l'altro la Fiat Chrysler Automobiles e i sindacati intesi come FIM, WILM, UGL, Quadri hanno sottoscritto un verbale d'intesa per l'adozione del nuovo sistema retributivo, nuovo che va a premiare, molto contrario sostanzialmente. Il costo totale massimo del nuovo sistema retributivo sarà di oltre 600 milioni di euro per far partecipare direttamente i dipendenti ai risultati aziendali. Maurizio Landini, segretario generale della FIOM, ha criticato il nuovo sistema retributivo, dice: l'annuncio di Marchionne cancella il ruolo del sindacato riducendo lo spettatore notarile e finge una partecipazione dei lavoratori ai destini aziendali, su cui invece non hanno alcuna possibilità di parola. È il giudizio di Landini. Obiettivamente Landini è sempre più politico, ma va benissimo il suo giudizio, che è sindacalista, è per sua scelta. Allora, mentre nella giornata di oggi centinaia di passeggeri esasperati hanno occupato i vagoni di un convoglio della metro a Roma, la metro a linea A, che si era fermato perché il macchinista aveva aderito allo sciopero del trasporto pubblico, gli utenti si sono rifiutati di scendere mentre dall'autoparlante venivano invitati a evacuare. Noi torniamo a occuparci del mondo parallelo, di un altro pianeta, quello che la crisi non ha proprio vista, e ci riferiamo agli sprechi degli enti locali, ai costi della politica su base locale e regionale, fermo restando che ci sono centinaia di consiglieri comunali e regionali in questo paese che fanno bene il loro lavoro, soprattutto comunali dei piccoli comuni, ma anche i costi della pubblica amministrazione centrale. Dicevo, oggi la nostra classifica è un po' particolare perché l'abbiamo presa, le notizie e lo spunto, da un libro che poi presenteremo. L'autore è Corrado Giustiniani, il libro si chiama Dinosauri ed è dedicato ai burocrati dello Stato, e non stiamo parlando di chi ha stipendi obiettivamente modesti, non stiamo parlando degli insegnanti di questo paese, dei vigili del fuoco, dei poliziotti, che andrebbero a nostro avviso pagati, quando c'è il merito, anche di più, e introdotto il merito. Stiamo parlando dei dirigenti, e anche in questo caso preciso che stiamo parlando dei dirigenti, non l'amministratore delegato con mille responsabilità, su cui c'è stata anche la polemica, i 240.000 euro messi da Renzi forse sono troppo pochi, ma stiamo parlando anche di dirigenti di seconda fascia. E allora iniziamo con i costi della nostra burocrazia, partendo da un caso minore, per la nostra classifica va dal caso minore al caso più grande, e poi toccando anche gli altri. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La classifica della settimana. Partiamo da un caso che nulla a che fare, però era troppo bello, con i dirigenti, i mega dirigenti dello Stato. La vicenda, allora, qui si chiama l'orrido burocratico, perché orrido, in un orrido a Bellano, cioè c'è una cascata, dal nome appunto da qui il termine orrido, che viene multata per troppo rumore. No, non sto scherzando, cioè la cascata fa troppo rumore. Pensate, un cittadino che abita vicino alla cascata ha chiesto all'ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, di misurare se il rumore della cascata rientrasse nei limiti di legge o no. Allora, siccome il rumore della cascata superava di 7 decibel il limite consentito, l'ARPA ha stabilito una multa da 650 euro al sindaco del paese, che si chiama Roberto Santa Lucia, che non l'ha voluta pagare, spiegando che 7 decibel equivalgono al rumore del respiro umano. Ora, oltre al fatto che la cascata è un'attrazione turistica di questo paese, di Bellano, in provincia di Lecco, ma il cittadino che abita vicino alla cascata, ma lo sapeva anche prima, ma per favore, ma l'ARPA non ha altro da fare? Ma questo è niente rispetto al quarto, terzo, secondo e primo posto della classifica. Allora, la Corte dei Conti è quella che va a vigilare come vengono spesi i soldi della pubblica amministrazione italiana. Però sembra, c'è un atteggiamento un po' strano del procuratore della Corte dei Conti, perché le denunce per danno erariale, da un lato i dirigenti dicono che per timore delle denunce per danno erariale preferiscono non muoversi e tenere le carte ferme sul tavolo che accelerare. Ma la cosa strana è che le denunce sono quasi sempre, tra virgolette, esagerate, quelle dei procuratori della Corte dei Conti, e non reggono quasi mai al giudizio di appello della magistratura contabile. Una ricerca di Alberto Zuliani ha infatti dimostrato che la richiesta di danno erariale di solito è pari a 100, sparata dai procuratori, si riduce dopo il secondo grado di giudizio, non c'è la Cassazione in questi casi, a 5. Quindi vuol dire che quello che poi viene accettato è il 5% della richiesta totale. E tutti i dirigenti tra l'altro hanno una polizza assicurativa. Ma la cosa interessante, qui vorremmo capire come mai, visto che poi il procuratore della Corte dei Conti, quando fa la sua relazione, si occupa del malaffare, del malessere in cui versa la pubblica amministrazione italiana, come mai solo il 4% dei dirigenti italiani chiamati in giudizio dalla Corte dei Conti sono chiamati in giudizio per i reati di corruzione? Ma veramente solo il 4%? Non è un po' poco? Corte dei Conti, non è che... Al terzo posto, oggi butta male per il sottoscritto, i giudici della Corte Costituzionale Italiana. Io spero che di essere abbastanza in regola con tutto. Allora, sono i più pagati al mondo. Io non ho nulla, ma figuriamoci, la Corte Costituzionale. Però perché i giudici della Corte Costituzionale Italiana sono i più pagati al mondo? 360.000 euro. Pensate che in Gran Bretagna il giudice della Corte Costituzionale Britannica viene pagato 235.000 euro, in Canada 217.000 euro, negli Stati Uniti, dove pure opera, e opera in maniera significativa, 166.000. Allora, 432.000 euro il presidente della Consulta contro i 173.000 euro del suo omologo, non omonimo, della Corte Federale Americana. E poi molti dei giudici costituzionali cumulano a queste somme anche la pensione. Non è un giudizio nostro, è in contrasto con la legge del 1953 che fissa i loro compensi, anche perché il trattamento di quiescenza è nell'ordine di 150.000-200.000 euro lordi l'anno. È stato anche pubblicato l'elenco dei cumulatori, mai smentito dalla Corte dei Conti, dalla Corte Costituzionale. E tra questi figura anche l'attuale presidente Alessandro Criscuolo. No, confermo a chi me lo sta chiedendo via sms mail che sì, il giudice della Suprema Corte Costituzionale Americana, Corte Suprema Americana, guadagna 173.000 euro il presidente, scusatemi, contro i 432.000 euro del presidente della Consulta Italiana. Sappiamo che lì c'è tutto il paragone, sto solo citando le cifre, non sto dicendo che sia illegale, abbiate pazienza. Secondo posto, e qui ci avviciniamo al succo, il premio e il merito dei dirigenti, il premio di produttività. Beh, insomma, è un premio todos caballeros, come si diceva nella Spagna del 1600, siamo tutti signori, tutti cavalieri. Perché dico? Perché secondo l'ANAC, che è l'autorità anticorruzione, la quasi totalità dei dirigenti ha conseguito la valutazione utile per ottenere il premio. Il 90%, che non è inferiore, una valutazione che non è inferiore al 90% del livello massimo atteso. La tavola più ricca è quella imbandita per i dirigenti generali dell'Agenzia delle Entrate, dove il premio di risultato può oscillare da un minimo di 24.000 a un massimo di 108.000. Ora, io vi voglio raccontare l'elenco degli obiettivi da raggiungere per conseguire il premio. Eravamo molto indecisi se mettere questa come prima notizia. Allora, per la Regione Toscana e i suoi dirigenti, una condizio sine qua non, terrificante, terribile, draconiana, per ottenere il premio di risultato era, per i dirigenti, era essere riusciti a ridurre del 5% l'uso della carta da un anno all'altro. Ora basta fare due calcoli: con quello che è il premio, il 5% della carta te la compri tu, la porti lì se vuoi e dimostri che l'hai ridotta. Premi annuali fino a 16.000 euro. È vero che la carta costa, come dice Milan la mattina, ma non costa così tanto, su via. In Basilicata nel 2011, il piano 2011 dell'assessorato alla sanità, la linea strategica era il potenziamento del welfare come diritto essenziale e fattore di sviluppo economico. Qualcuno ci ha capito qualcosa? E il compito dei dirigenti per ottenere il bonus era il migliorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni sociosanitarie essenziali. Ma scusate un attimo, ma non sei già pagato per quello? Cioè, se fai il dirigente dell'assessorato alla sanità, sarai pagato non per peggiorare le condizioni strutturali di garanzia delle prestazioni sociosanitarie essenziali, non per distruggere ciò che resta del welfare, ma per mantenerlo e migliorarlo. No, becchi pure un premio. Alla Farnesina c'è anche un premio in base al numero di rassegne stampa distribuite. Cioè, se io mando la stessa mail allo stesso indirizzario, va bene. Alla Farnesina, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese strappa la metà del premio con la ricognizione delle opere d'arte presenti in sole 3 ambasciate in un anno. Cioè, ma praticamente, se fai un conto, sono 3 settimane di lavoro, viaggi compresi, e se riesci a fare la ricognizione delle opere d'arte presenti in 3 ambasciate, ti meriti il premio. Metà. L'altra metà come te lo meriti? Con le visite guidate alle collezioni della Farnesina. Quanto è l'obiettivo di queste visite? Quanti devono visitare? 500 visitatori all'ora? No. Al giorno? No. A settimana? No. Al mese? Praticamente siamo a una visita e mezza al mese. Porti un amico ogni giorno e ti becchi il premio, ragazzi. Ci sarebbe da piangere. Allora, sempre la Farnesina. Dunque, la promozione della lingua italiana, uno becca il 100% del bonus se risultano complessivamente iscritti ai nostri corsi 70.000 studenti. C'è un piccolo dubbio che questo numero fotografi già la situazione esistente, quindi se mantieni la situazione esistente ti becchi il bonus al 100%. Corrado Giustiniani, buonasera. Come qua. La classifica della settimana. Allora, mentre appunto è in collegamento anche l'autore del libro Dinosauri, Corrado Giustiniani, il numero uno oggi, la classifica è dedicata alla pubblica amministrazione centrale, il primo posto. And the winner is... Beh, tutti i dirigenti apicali della nostra pubblica amministrazione sono i più pagati al mondo. Rapporto dell'OCSE nel 2013, $650.000 l'anno a testa. I secondi sono i neozelandesi, che funzionano un po' diversamente la Nuova Zelanda, con $397.000, i britannici a $348.000, gli americani a $275.000 e poi Francia e Germania più in basso. È noto che infatti la migliore pubblica amministrazione al mondo è quella italiana, poi la metà vale quella neozelandese e molto meno vale la nota inefficiente pubblica amministrazione britannica, francese e tedesca. Allora, Tra l'altro, nel pubblico molti dirigenti, non parliamo di dirigenti solo quelli generali, ma anche di seconda fascia. Non so, all'INPS i dirigenti di seconda fascia prendono in media 142.000 euro lordi, alla GCOM 140.000 euro. In un'impresa privata, un direttore generale, quindi non di seconda fascia, in media prende 114.000 euro lordi. Un altro esempio, il capo di gabinetto del Foreign Office, quello di James Bond, ragazzi, il Foreign Office, il Ministero degli Esteri britannico, guadagna in sterline 150.000 euro lordi, l'equivalente di 150.000 euro lordi, con praticamente tre direttori generali a 164.000, gli altri 9 direttori del Foreign Office 138.000 e 4 direttori generali del Ministero dell'Economia britannico guadagnano 154.000. Da noi il capo di gabinetto della Farnesina ne prende, ma solo perché Renzi ha messo il tetto, 240.000, e i direttori generali del Ministero dell'Economia viaggiano in media sui 200.000 euro lordi. Ministero della Salute 236, Ministero del Lavoro 230, Ministero dell'Ambiente 260, i meno pagati quelli dei beni culturali 165 e dell'istruzione 82.000 euro. Poi ci sono 300 dirigenti delle regioni che prendono da 150.000 euro in lordi in su, e i direttori generali dell'INPS che prendono 240.000 euro, dell'Agenzia delle Entrate 240.000 euro, come nelle varie authority. Poi la Sicilia fa sempre caso a sé, a 1.800 dirigenti, praticamente la Sicilia da sola, tutti i dirigenti l'equivalente di tutti i dirigenti delle altre regioni a statuto ordinario messe assieme, con stipendi elevatissimi. Ce la faccio. Corrado Giustiniani, allora dammi un primo flash, poi devo dare anche il traffico, abbiamo una scheda molto densa il venerdì, ma insomma, detta così non se ne esce. C'è qualche speranza? Beh, c'è qualche speranza. Il problema è, ecco, questo detto Renzi, che detto fra noi è stato messo, ma pone ancora a livello internazionale i dirigenti pubblici italiani. Che poi il paradosso è questo, guadagnano molto ma sono molto inefficienti, perché se guadagnassero molto e fossero efficienti al massimo e le pratiche fossero velocissime e non si dovesse aspettare 3 ore e mezza all'Agenzia delle Entrate, come Cottarelli mi ha raccontato, che prima di ripartire, Cottarelli era l'ex certo, commissario alla Spending Review, che prima di partire per Washington mi ha detto: sono andato a chiudere i conti col fisco italiano e ho messo 3 ore e mezza. Ecco, se invece 3 ore e mezza si mettesse 1 ora, uno poi potrebbe anche capirlo questo, ma non è così. Allora, anche col tetto Renzi, Cottarelli stesso ha fatto una simulazione e ha visto che rispetto al reddito pro capite i dirigenti apicali italiani guadagnano 12 volte e mezzo il reddito pro capite italiano, a fronte dei dirigenti invece tedeschi che guadagnano 5 volte il reddito tedesco. Allora, su questo che cosa si può fare? Beh, io direi che abbassare oltre i 240.000 la vedo dura, anche perché ha un effetto di appiattimento avuto, in dubbio. Cioè, sì, certo. Tu hai citato i dirigenti, per esempio, del Ministero della Salute, che guadagnano 240.000, i più alti guadagnano 240.000 euro, come il capo della polizia. Non è possibile questo. Come il direttore generale del Tesoro, anche questo. Cioè, non se è possibile. Tu tagli solo il tetto massimo, appiattisci. Il capo della polizia ha un ruolo fondamentale, importantissimo, e a mio avviso, lo dico senza paura, può guadagnare anche di più di 240.000. Il problema è che se tu tagli solo il tetto massimo, cosa succede? Che la differenza tra chi ha un ruolo come quello del capo della polizia Pansa e magari un dirigente del Ministero del Lavoro e praticamente guadagnano quasi lo stesso. Ora, non si può mettere assieme le due cose, tra la responsabilità, gli incarichi del capo della polizia rispetto a un dirigente del Ministero dell'Ambiente o del Ministero del Lavoro. Are you with me? Are you with me? Allora, Corrado Giustiniani, è vera la vulgata per cui in realtà la politica stessa ha paura a toccare i dirigenti della pubblica amministrazione centrale? La risposta è questa: dal 1993 un famoso decreto legislativo 29, la burocrazia, la dirigenza ha mano libera sulla gestione, cioè firma tutti gli atti, i politici non firmano più niente, si era appena usciti da Mani Pulite, quindi i politici, cioè i ministri, danno le direttive e poi i dirigenti le mettono in pratica, quindi è vero che hanno un grosso potere che è rimasto un po' nell'ombra, non se ne è parlato, le varie caste erano soprattutto i politici e non i dirigenti, quindi questo sì, certamente non hanno degli interlocutori politici di grande livello, diciamo la verità, i dirigenti italiani. Ma nel tuo libro, se non posso raccontare tutta la tua inchiesta, l'idea che ti sei fatto è che sia più un problema di non dico sudditanza, ma così di reverenza appunto da parte del ministro che arriva, che poi magari dopo un anno, due anni cambia governo e se ne va, e quindi capisce che toccare i dirigenti diventa impossibile, o c'è in realtà un accordo tra dirigente e ministro? Non so se mi sto facendo capire, cioè più subiscono il potere del dirigente della pubblica amministrazione o gli fa comodo? Ma lì ci sono i capi di gabinetto che sono quelli che, diciamo così, sono cinghia di trasmissione tra i dirigenti e il ministro. C'è anche una discreta possibilità di prendere dirigenti dall'esterno, anche senza titolo di studio, anche per qualora non si ravvisi che ci sono dirigenti capaci per prendere quel posto, quindi c'è una certa possibilità di manovrare da parte dei ministri. E certamente che cosa si può fare, mi dicevi prima? Beh, intanto bisogna ristabilire dei sottotetti, bisogna differenziare un po' di più. C'è una riforma allo studio e al Senato in questo momento, riforma della pubblica amministrazione con una parte sulla dirigenza, e vedremo se la Madia riuscirà a mettere i soldi. Ah, tra l'altro, se posso dire, sì, la ministra Madia presenterà il libro il 12 maggio assieme a Sabino Cassese. Ah, ti fai pubblicità, va bene. Scusa, va bene. Non dovevo. No, vabbè, poi la paghi però. Lo pago, sì. E quindi questo, e quindi i sottotetti. Poi bisogna ristabilire una cultura di risultato, ma come si fa? Cioè, i dirigenti pubblici sono tutti, vengono da concorso, sono tutti laureati in legge, purtroppo, perché questo rende una trasparenza un pochino opaca, e la cultura di risultato non c'è proprio nel sangue della pubblica amministrazione. Ti faccio questo esempio: nel 2009 Renato Brunetta, che era, sì, che era ministro della funzione pubblica, certo, fece questa riforma per i dirigenti. Allora, il premio di risultato, così si chiama il premio di risultato, non lo diamo a tutti. Su 100 dirigenti lo diamo soltanto a 75, quindi non è una roba iper meritocratica. Che successe? Successe che ci fu un accordo governo-sindacati per congelarlo, tradotto poi in un decreto legislativo firmato da Brunetta. Si continua a darla a tutti. A darlo a tutti, perché si sentiva male. Guarda, Corrado, in bocca al lupo per il prossimo libro e per la presentazione di questo. Io vedo tantissimi messaggi, non posso rispondere a tutti. Quello che vi posso dire è che adesso c'è il GR24 e poi il caso virtuoso, poi la Popolare Emilia Romagna e i mercati. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allontaniamoci dalla classifica poco esaltante anche oggi, ma non lo è mai, degli sprechi o dei costi della pubblica amministrazione, per dare così un elemento di speranza, anche se la giornata è cupa. L'Italia che funziona, non è l'Italia che funziona, che c'è tanta Italia che funziona, è l'Italia che si è messa in gioco, oserei dire io. E allora, Ronaldo Bonazza, ministro delegato di Mutechi, buonasera. Buonasera. Dunque, lei ha aperto la società nel 2012, noi cerchiamo sempre persone che siano messe in gioco negli anni pieni della crisi. Che cosa fate e come è nata questa idea? Prego. Allora, la nostra società produce e commercializza fari per illuminazione a LED. Noi abbiamo una produzione che è iniziata nel 2012 con un faro stradale e poi nel 2013 e nel 2014 abbiamo sviluppato altri 5 prodotti in maniera, devo dire, anche abbastanza faticosa, nel senso che gli investimenti sono molto alti, però abbiamo riscontrato poi un mercato veramente molto aperto e molto, molto interessante in Italia, ma soprattutto all'estero da questo punto di vista. Allora, il LED, io ricordo che il lampione LED è quel tipo di luce che permette un risparmio superiore al 70% rispetto alle, esatto, alle lampadine tradizionali. Devo dare una notizia che forse non le farà piacere. Poco fa le agenzie hanno battuto una nota di Bruxelles per cui si sposta di 2 anni, slitta al 2018, lo stop alle vecchie lampadine. Era previsto da settembre 2016, slitta al 2018. Questa è la commissione tecnica sulla direttiva Eco Design a Bruxelles, perché non tutti i paesi erano pronti per mettere al bando le lampadine di classe C. Detto questo, quindi le vecchie alogene, no? Detto questo, voi avete deciso di fare lampioni a LED. Quanti soldi avete avuto bisogno per partire e dove li avete trovati? Ma siamo partiti innanzitutto con i nostri soldi, le garanzie nostre, e quindi questo è un dato sostanziale, anche perché seguendo la sua trasmissione precedentemente ho assistito poi a tutta questa bella vicenda dei dirigenti degli enti pubblici, che è veramente preoccupante. Allora, la nostra azienda è nata con, diciamo, con le garanzie date dai soci. I soci sono 3, lo stato attuale. Abbiamo lavorato attraverso il sistema bancario in maniera molto faticosa, devo dire, perché anche le banche non sono sempre allineate evidentemente con start-up come Mutech in questo caso. E diciamo, all'interno di questo budget abbiamo cercato di sviluppare il più possibile una tecnologia avanzata, perché il tema in questo senso è dare un prodotto di altissima qualità, perché noi abbiamo dei competitors che sono multinazionali. Abbiamo competitors, ne dico uno solo così capisco esattamente di cosa parliamo. Quando uno parla di Philips ha già capito di cosa si tratta. Quindi voi nel 2012 avete fatto uno studio, lanciate la società. Sì, i prodotti arrivano nel 2013. Quando è che avete iniziato a commercializzarli, a venderli? Ma diciamo, li abbiamo cominciato a commercializzarli verso dopo la metà del 2013, ma poi realmente a gennaio del 2014. Quindi nell'anno 2014 si sono cominciati a vedere i primi risultati, che hanno portato anche a a delle indicazioni di cifre interessanti, insomma, da questo punto di vista. Quanto state fatturando? Ma diciamo che nel 2014 abbiamo fatturato circa 500.000 euro, però diciamo che le aspettative per il 2015 sono assolutamente superiori. Speriamo di non essere poi traditi strada facendo. E in quanti lavorate in questa nuova società? Ma nel complesso diciamo che siamo circa una decina di persone, 10-12 persone che si occupano di fare questa attività all'interno di una Green Factory che si chiama Progetto Manifattura a Rovereto, in provincia di Trento. E la cosa che quindi siete arrivati, dicevo, a 500.000 euro di fatturato, quanti pezzi fate al mese? Ma allora, diciamo che la capacità di produzione si aggira intorno ai 10.000 pezzi al mese, questa è la capacità di produzione. Poi ovviamente non siamo ancora arrivati evidentemente a commercializzare questo numero così elevato di fari. Diciamo che ci sono delle situazioni che noi abbiamo sviluppato soprattutto in paesi come Sud America, il Cile, il Perù. Stiamo sviluppando a Singapore in questo momento qua, a Kuala Lumpur, in Malesia. Stiamo sviluppando tutto un ragionamento di vendita di questi fari. Perché? Perché abbiamo dalla nostra che siamo italiani e l'Italia paga con la tecnologia, perché siamo bravi a fare questo, paga col design, perché siamo bravi a fare questo, dobbiamo dirlo. E quindi quando andiamo all'estero, la considerazione che gli abitanti degli altri paesi hanno nei confronti dell'industria italiana sicuramente fa portare a questo, casa dei risultati. E questo ci fa molto piacere. Mi dica, come ultima cosa, dov'è che ha avuto più problemi? Burocrazia o finanziamento da parte delle banche? Tanto quei due sono. Allora, se vogliamo metterli in ordine, finanziamenti, perché le banche, se vogliamo chiudere in una parola, prima davano troppo e adesso danno poco o niente. Questo è un problema gravissimo, perché gli investimenti, noi come dire, abbiamo bisogno sempre di fare investimenti per stare aggiornati e vicini anche alle aziende che sono molto più grandi e multinazionali, che sono molto più grandi di noi. La burocrazia è una cosa allucinante, Che devo dire, questi sono i due problemi. Ma finanziamenti voi quindi dalle banche non avete ottenuti, da qualche altro soggetto? Sì. No? No, allora dalle banche noi finanziamenti li abbiamo ottenuti, li abbiamo ottenuti dietro ovviamente garanzie di varia natura che i soci hanno dovuto dare, immobili, non immobili, firme e tante altre cose che si danno normalmente negli istituti bancari, insomma. Ecco, beh, poi... meglio le garanzie di varia natura che le garanzie in natura, perché, viste le banche. Assolutamente. Va bene, assolutamente, poi? Assolutamente. Poi stiamo attingendo attraverso qualche aiuto statale, però con una fatica incredibile, con fondi di garanzia, ad esempio. Noi viviamo in una regione a statuto autonomo e questo dobbiamo ringraziare di essere qua, perché la Provincia Autonoma di Trento ovviamente ci ha aiutato anche attraverso dei finanziamenti, dei contributi che la provincia dà per le start-up e le aziende innovative. Quanto vi dato? Diciamo che allo stato attuale abbiamo ricevuto circa 80.000 euro, quindi non moltissimo, però noi ogni anno possiamo chiedere evidentemente di poter finanziare lo sviluppo e la creazione di nuovi prodotti. Questo sicuramente sì. Allora, Bonazza, in bocca al lupo a lei e soprattutto ai 10 collaboratori. Il caso Virtuoso ci risolleva dall'eccesso di Malox che abbiamo preso prima, mentre ho fatto pubblicità in diretta, va bene, mentre parlavamo dei dirigenti della pubblica amministrazione italiana. Grazie quindi, e ripeto, in bocca al lupo a Rolando Bonazza, amministratore delegato della nuova società Mutecchi. Alessandro Vandelli, amministratore delegato della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, buonasera. Buonasera a voi. Vandelli, adesso arriviamo alla BPR, alle vostre prospettive, però ogni volta che noi incontriamo, avremo anche sfiga, come si dice in gergo, ma ogni volta che parliamo con un imprenditore che ha messo su una startup che si è rimboccata le maniche, cioè due sono i casi, la burocrazia di questo paese e le banche che non gli danno i soldi. Ma che succede, Vandelli? Ma guardi, noi finanziamo molte realtà delle nostre zone, chiaramente finanziare start-up non è una cosa semplice, devono esserci fondi specializzati che seguono queste realtà, quando ci sono i presupposti anche le banche fanno la loro parte. Ne abbiamo tantissimi delle nostre realtà, lei sa, il nostro quartier generale in Emilia Romagna, forse la regione che esprime le maggiori iniziative in questo ambito. Ci si inventa sempre cose nuove, lei pensi che recentemente abbiamo cercato di avere anche uno strumento che finanziava le nuove assunzioni, chi voleva fare dei percorsi di crescita poteva trovare da noi un supporto anche da questo punto di vista. Poi è chiaro che bisogna avere dei progetti solidi, saperli rappresentare, ma avere anche una componente di patrimonio che sostenga in maniera equilibrata. Lei sa meglio di me che la grande critica che viene mossa al sistema Italia è di avere aziende molto indebitate, è chiaro che questo non aiuta e non agevola lo sviluppo. Questo è vero, però in questo caso noi parliamo di start-up, che se non si indebitano loro chi si deve indebitare all'inizio? Sì, allora, però ci vuole anche del patrimonio. Ci vuole anche del patrimonio, se posso permettermi, Vandelli, ci vuole anche la capacità e ci vogliono le competenze dentro la banca per valutare una start-up, perché su questo voi fino al 2008, voi come mondo bancario avevate mollato il colpo, tanto... Poi il rischio di credito lo giravate come mondo bancario, non come Popolare Emilia Romagna, lo spacchettavate, abbiamo capito tutti come funzionava, quindi poi si perdevano anche le competenze. Ha ragione lei, la banca non deve prestare soldi così, perché sono soldi nostri, però ha anche qualche competenza in più nel valutare le start-up, se no è chiaro che chiedi solo le ipoteche o chiedi solo le garanzie, e vabbè, però così non si va troppo lontano. Allora, spread sui timori della Grecia che torna a 148 punti, male oggi perché è anche un buon pretesto per vendere. Tutti i titoli finanziari, Azimut meno 4,60, Monte dei Paschi meno 4,5, Pop Emilia Romagna meno 4,20, Ubibanca meno 4, Unipolsai meno 3,80, Intesa San Paolo meno 3,70, Pop Milano meno 3,60%, chiudo con Mediolanum meno 3,30, Mediobanca meno 3,20, Banco Popolare meno 2,70. Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, lo spread è salito, qui non c'è nessun pretesto, ma sono veramente tutti timori per quello che ha detto Varoufakis, stiamo finendo i soldi, però adesso vediamo, entro giugno ci vuole un accordo o c'è anche un gran pretesto il venerdì? Entrambe le cose, eh. Ieri era giovedì, anche ieri c'erano un bel po' di vendite, però scusate, sì, sono entrambe le cose. Il pretesto attualmente è la Grecia, la Grecia e i suoi creditori non stanno trovando un accordo, le posizioni sono troppo distanti per motivi politici, nessuno può fare un passo indietro o quantomeno dimostra di voler fare un passo indietro. Se la Grecia non otterrà l'ulteriore tranche di aiuti dai creditori, tra cui l'Europa e il Fondo Monetario, la Grecia finisce i soldi, questo è sicuro, e quindi a quel punto il default è abbastanza inevitabile. Quindi è tutta una battaglia politica, perché certo, il nodo è politico. Questo non è il problema, se posso aggiungere, perché quando le posizioni sono politiche vanno a irrigidirsi, se fossero solo economiche si potrebbe trovare anche una trattativa, ma se non può perdere la faccia Tsipras e Varoufakis, e la Merkel ormai su questo tiene assieme quel che riesce a tenere assieme la CDU, è chiaro che poi il problema... Sì, poi non è solo la Merkel, per esempio anche la Spagna ha un problema politico molto forte, perché certo, in Spagna sta crescendo questo partito Podemos che è molto simile a Syriza. Se Syriza vincesse la partita con l'Europa, il governo spagnolo si troverebbe in difficoltà, quest'anno ci sono le elezioni in Spagna, quindi c'è proprio una partita molto politica sulla vicenda greca, i mercati stanno in mezzo in questa situazione. L'euro è 1,07, poco mosso, si è mosso soprattutto lo spread, fermo restando che lo spread a 148 è ancora accettabile, però insomma sono 30, 35 punti, 40 punti più degli spread delle ultime settimane, Moria. Sì, assolutamente, il movimento è stato molto veloce. Molto brusco soprattutto. In realtà, sì, in realtà quello che sta accadendo adesso è che i mercati, come dicevi giustamente tu, stanno prendendo il pretesto dopo grandi acquisti, un rally incredibile sia delle borse sia dei titoli di Stato per prendere qualche profitto. E anche dei titoli bancari, abbiamo visto l'indice. E anche dei titoli bancari. Esatto. Del settore tornare in molti titoli a livelli del 2009, non tutti, prima che mi riempiate di insulti, non tutti, ma molti. Allora, dottor Vandelli, al di là dell'andamento di oggi della Popolare Emilia Romagna, che comunque resta il sesto gruppo bancario italiano per valore degli attivi, 60 miliardi di euro e terzo tra le popolari, voi siete una delle banche, delle 10 popolari interessate al riordino, alla trasformazione in SPA che ha voluto il governo, perché avete un attivo superiore agli 8 miliardi. Avete chiuso 2014 con 30 milioni di utili. Mi dica una cosa, visto che avete annunciato non solo il nuovo logo ieri, ma anche il nuovo posizionamento. Il nuovo posizionamento prevede un viaggio, come tutti i posizionamenti. Con chi lo farete? Devo dire che, come sempre, quello che appassiona maggiormente, ma è corretto così, è un po' il risico bancario e le diverse possibili opzioni. A noi quello che appassiona in questo momento è portare avanti il nostro progetto di banca, crediamo che ci siano grandissime opportunità di sviluppo e di crescita del nostro business, cercheremo di capire, questo sì, nelle prossime settimane, se in primo luogo con qualcuna delle altre banche popolari si può convergere e avere un percorso comune. Non è una cosa semplice, io non sono di quelli che pensa che ci sia il colpo di pistola e il giorno dopo tutti cominciano a fare le aggregazioni, credo che ci siano altri temi importanti, l'ho già detto in altre circostanze, dobbiamo essere consapevoli di qual è la compagine azionaria che ci accompagnerà in questo tipo di operazione. Lei pensi che noi oggi abbiamo quasi 90.000 soci, ogni socio ha delle quote limitatissime, di fronte ad una SPA le regole cambiano in maniera molto importante, dobbiamo essere pronti con delle regole diverse e nuove. Chiaro Andelli, però Modena è in una posizione geografica che permette di andare agevolmente verso Vicenza, verso Treviso, verso Verona o verso Milano. Lei, insomma, dovesse iniziare questo viaggio, visto che Modena è proprio lì, io parlo solo a livello geografico, certo, da che indirizzo prenderebbe? Beh, mi lasci dire che la prima cosa, mi fa piacere che lei citi la nostra città, perché noi siamo l'unica grande popolare presente in Emilia Romagna, ce ne sono 4 in Lombardia, 3 in Veneto. Ecco, diciamo che noi guardiamo entrambe queste regioni con interesse, abbiamo dei rapporti molto buoni con diverse di queste banche, sono entrambe regioni interessanti, non intendo fare delle classifiche in questo momento. Però magari un matrimonio con Verona o Milano è più difficile, perché insomma sono delle spose o dei mariti, insomma, non è un problema di gender, insomma anche più pretenziosi, magari a Vicenza, Treviso soprattutto sono più pronti a cercare marito? Ma guardi, io credo che la novità vera di questa tornata di potenziali operazioni di aggregazione è che lo schema di una volta, dove c'è la grande banca forte che va a prendere quella un po' in difficoltà, che magari in qualche piccola circostanza potrebbe esserci, questa volta funziona molto meno. Quindi io credo che molti matrimoni dovranno essere celebrati con la logica del merger of equals, cioè di matrimoni sostanzialmente alla pari. Quindi si dovranno trovare degli equilibri di governance, degli equilibri da un punto di vista proprio delle attività, di come organizzare la banca, quindi qualcosa si vuole un po' più di complesso, ma forse di maggior soddisfazione per tutti. Cioè, diciamo, pari diritti a marito e moglie? Beh, diciamo, dei diritti che hanno entrambi. Poi è chiaro che la dimensione relativa sposta in qualche modo i pesi tra le due componenti, ma immaginare che una banca prenda un'altra e quella che viene acquisita, tra virgolette, chiude i battenti, azzera completamente le proprie strutture centrali, questo non è immaginabile, mentre invece credo che sia possibile trovare una modalità per lavorare a progetti comuni dando uguale e comunque significativa dignità ad entrambi i componenti di questa ipotesi. Però lei ci conferma che, insomma, che tutte le ipotesi sono aperte, sia, così traduco anche perché sennò, sia la Banca Popolare, quindi Verona, che la Pop Milano, che Popolare di Vicenza, che Veneto Banca, per voi insomma quello è lo scenario, no? Beh, diciamo che ci sono... Ho dimenticato qualcosa, Vandelli? Beh, diciamo, ci sono le banche che le hai citate, ce ne sono anche due che si trovano entrambi in una città bellissima che è Sondrio, quindi ce ne sono... Ah, il Credito parte... Valtellinese e la Popolare di Sondrio, giusto? Ma dimenticavo. Sì, sono, diciamo, proprio per completare il nome delle banche. Credo che... A questo punto le ha fatte tutte però, Vandelli. Sì, no, cioè, però diciamo... credo che in questo momento, ma ritorno a quello che dicevo prima perché mi sembra importante, anche se meno affascinante, pensiamo e dobbiamo essere concentrati per cercare di creare i presupposti per creare un nucleo di soci che dia stabilità alla banca. Questa, mi creda, quasi ancora più importante dell'altro aspetto. Non ci sarà nessuna aggregazione se uno non sa con chiarezza come governa quel processo, chi sarà un domani a dare stabilità alla banca, se no diventa un azzardo che veramente non lascia capire come domani le cose. Allora, Vandelli, nel chiudere, perché poi voglio dare anche gli altri titoli di borsa, ma mi stanno scrivendo molti ascoltatori sul tema delle start-up, della capacità di valutare. Si può fare anche autocritica delle volte, dire che forse vi siete dimenticati come mondo bancario e anche dentro la Popolare Emilia Romagna negli anni delle vacche grasse fino al 2008, la distinzione tra nel valutare i progetti, soprattutto quando sono startup, oppure lei ha la coscienza a posto e ci dica che ha la coscienza a posto perché dentro ha tutte le competenze corrette per valutare un imprenditore che vuole lanciare un progetto serio rispetto a uno che vi fa perdere tempo o peggio ancora? Ma guardi, io credo che tutti noi dobbiamo sempre cercare di migliorare la nostra capacità di valutare le cose. Se vuole l'esperienza particolare, ma dico veramente una battuta brevissima, della nostra realtà, forse proprio per la regione in cui, come dire, operiamo, noi abbiamo cominciato a fare corporate finance più di 10 anni fa, abbiamo accompagnato aziende in processi di crescita e sviluppo, diverse start-up. Diciamo, questo forse è un caso, io stesso sono nato nella finanza aziendale a favore della piccola e media impresa, la nostra idea era di dare gli stessi servizi di cui potevano godere le grandi aziende alle piccole realtà, quindi è una grande sfida che credo che noi abbiamo vinto e che vogliamo portare avanti. Beh, detto questo, credo che sull'ambito in particolare delle start-up e delle early stage si possa fare ancora molto. Allora, grazie anche all'amministratore delegato di Banca Popolare Emilia Romagna, Alessandro Vandelli. I titoli che non vi ho detto, non è il mio prossimo romanzo, ma è Pirelli più 0,20, Ansaldo invariata. Per il resto, invece, al di là delle flessioni bancarie, Prismi al meno 3,70%, ST Microelectronics meno 3,60%, e poi A2A meno 3%, debole oggi anche tutto il settore energetico e il lusso. Ferragamo perde il 2,60%, Eni il 2,20% come Moncler, Enel il 2%, Exor il 2% anch'esse. Migliori e peggiori, MacLink più 9,70, Soft Strategy più 6,50, peggiore Bioera meno 16,50, Key Group meno 8,90%. A me non resta che ringraziare come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Augurare a voi un buon fine settimana, soprattutto a chi lo passerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.